Bolla di sapone scoppiata a due giorni da Natale. Italia Viva e Conte fanno pace con il Presidente del Consiglio che retra sulla task force per la gestione dei fondi europei e i renziani che placano i venti di crisi. La giornata di ieri è stata anche segnata, dopo il via libera dell'EMA, da quella dell'Agenzia Italiana del Farmaco, con le prime vaccinazioni contro il Covid che partiranno il 27 di dicembre, simbolicamente con circa 10.000 persone, mentre in Gran Bretagna, già quella della variante, i vaccinati sono già 500.000. A proposito di variante, ci si sta attrezzando per far rientrare gli italiani dalla Gran Bretagna, vedremo quanto presto, eh. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Quattro mattino di Simone Spezia. Ascoltatrici, cari ascoltatori, sono le 6:31 minuti e 30 secondi, è mercoledì 23 dicembre e ci siamo. Segnalo agli amici juventini in ascolto che i tifosi della Fiorentina sono già partiti prima ancora che iniziasse la trasmissione con le prese in giro. E adesso toccheremo anche quel tema, ma più che il tema della sconfitta della Juventus di ieri, il tema di questa partita Napoli-Juve che si dovrà giocare alla fine, è stato deciso. È una questione correlata, come sapete, alla vicenda Covid. Allora, iniziamo dalla politica, va oggi, iniziamo dalla politica. Guardate, per un attimo ho anche pensato che ci potesse essere quasi una crisi di governo. Poi alla fine le impressioni iniziali erano giuste. Non si va da nessuna parte. Teresa Bellanova, capo delegazione di Italia Viva al governo. Intanto credo che sia positivo che finalmente incominciamo a discutere di contenuti. Non si parla di task force perché, come vedete, quella proposta non è inserita negli emendamenti, nella legge di bilancio. Adesso incominciamo a lavorare nel merito, perché quello è quello che interessa, credo, a questo paese: come si impegnano le risorse e come si danno risposte alle emergenze che ci sono. Ma sì, perché che è successo dopo quell'idea che aveva fatto balenare Conte di questa task force, di questo gruppo di lavoro con una struttura piramidale enorme, 6 manager con sotto ciascuno, con sotto 30 persone, non mi ricordo quante, che poi si erano ridotte ed erano diventate 15, poi erano diventate 10 e poi non si sa esattamente, non si sa che ci sarebbe dovuto entrare dentro. Ebbene, il Presidente del Consiglio ha fatto un passo indietro, ha detto: va bene, la cosa che avremo fondamentalmente è una struttura di monitoraggio, che è in fondo quello che chiedeva Bruxelles e quello che dovremmo avere noi, perché il grande problema che abbiamo, come sapete perfettamente conoscendo questo paese, non è l'avere i fondi, il fatto è spenderli e saperli spendere e avere qualcuno che controlli come e quanto questi fondi vengono spesi. Bellanova dice comunque: ci riserviamo qualche giorno di tempo. Stiamo facendo un lavoro puntuale con i nostri gruppi, che sapete sono impegnati anche nell'approvazione della legge di bilancio alla Camera e settimana prossima al Senato, e quindi ci riserviamo qualche ora di tempo, qualche giorno, in modo da poter mandare un documento più puntuale proprio di proposte che noi avanziamo, e su questo poi bisognerà fare una sintesi, come è doveroso fare da parte anche del Presidente del Consiglio. Oh, io adoro questa cosa, questo linguaggio come vogliamo chiamarlo, da Prima Repubblica, questo linguaggio un po' vecchio, un po' fanè, se vogliamo usare un termine elegante. Abbiamo parlato di rimpasto, abbiamo parlato di verifica di governo, adesso arriva, dobbiamo fare la sintesi, è così. Commissione Europea lo specifica, il ministro Amendola la chiede, una struttura di quel genere, una struttura che controlli. La Commissione Europea chiede appunto che ogni paese si organizzi con una struttura che non sostituirà i ministeri, come è stato detto, ma che aiuterà la pubblica amministrazione. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp. Però se volete, perché io so che quando parliamo di questa mezza crisi politica, finta crisi politica vera, non lo so, non so più come chiamarla, perché si sono rincorsi indiscrezioni, retroscena, dichiarazioni molto dure, tutti se la prendono sempre con Matteo Renzi. Ora qua nessuno vuole difendere Matteo Renzi, nessuno vuole difendere Italia Viva, però vi ricordo sommessamente che in realtà contro Conte si è scagliata più di una persona, anche all'esterno di Italia Viva, anche all'interno del Partito Democratico, anche all'interno del Movimento 5 Stelle. Pensate che ancora ieri, ospite di Carta Bianca, il vice segretario del Partito Democratico, Orlando, sul tema della famosa task force, si esprimeva così. Una cosa così delicata era una cosa che andava socializzata e costruita prima, per evitare un equivoco, cioè che in qualche modo quelle strutture vanno a sostituire o a sovrapporre con quelle esistenti, piuttosto che essere un supporto rispetto a quelle esistenti. Quindi capite com'è. Poi è chiaro che Orlando, il Partito Democratico, tutto questo mondo usa termini un po' meno duri di quelli di Renzi, e usa espressioni a volte difficilmente comprensibili, come questa, la task force andava socializzata prima, dice Andrea Orlando, qualsiasi cosa voglia dire, credo che voglia dire andava discussa prima con gli altri partiti, però la sostanza è che su questa vicenda si è addensata la tensione, e si è addensata la tensione, ragazzi, anche perché in ballo ci sono 209 miliardi, e come abbiamo visto dalla vicenda delle famose mancette all'interno della legge di bilancio, quando ci sono in ballo i quattrini, gli appetiti e gli interessi, che non sono necessariamente gli interessi personali, magari sono anche degli interessi che hanno a che fare con il paese, che però quelli di intestarsi alcuni capitoli di spesa per fare bella figura sono fondamentali. Così Salvini commenta, sarà nostro ospite tra l'altro, alle 8.45, così Salvini commenta la cosa, tutta la vicenda. Penso che ormai gli italiani si siano abituati ai litigi mensili fra Conte e Renzi, alle minacce, agli insulti, e poi tutto cancellato e nemici come prima, però noi non abbiamo perso neanche 5 minuti dietro questo teatrino. Ma insomma, anche qua c'è da discutere se la Lega abbia perso qualche minuto dietro a questo teatrino, perché a fronte dei segnali di crisi che sembravano piuttosto forti, qualche cedimento da parte della Lega l'abbiamo visto tutti, con Salvini che si è detto no, però adesso il governo non può cadere, non si può andare al voto, tutto sommato si potrebbe fare un governo di una sorta di governo di unità nazionale, un governo di transizione, poi si sa come vanno a finire queste cose, e quindi non ci abbiamo creduto, però ci abbiamo creduto alla fin fine. La questione del vaccino, come vi dicevo prima, si parte il 27, si parte con una vaccinazione simbolica, lo si farà anche in altri paesi europei. Saranno vaccinate circa 10.000 persone, e poi il grosso dovrebbe partire all'inizio di gennaio. Non sappiamo esattamente dove, perché non so se i gazebo a forma di primula siano pronti oppure no, e quindi non so se ci siano dei posti specifici nei quali partirà la vaccinazione, perché per il momento io sono rimasto alle primule. Attendo le primule. Il professor Galli dice, all'aria che tira, dice: ecco la data della mia vaccinazione. Via, via. il 27 qui in Lombardia sarò uno dei primi a fare il vaccino. Grande, le mando la telecamera. Beh, non lo so, vabbè, adesso non so nemmeno come succederà esattamente. Non, spero che non si arrivi a niente di spettacolarizzato, di grottesco, però il concetto è messaggio forte e chiaro, iniziano le vaccinazioni, io me la faccio subito. Grande il professor Galli, eccolo qua, e dice sul tema dei vaccini ci sono stati dei ritardi, Delle abbondanti dosi di vaccino che ci saremmo assicurati, ci sono delle falle dovute a dei ritardi. Uno di quelli che doveva arrivare tra i primi è quello di AstraZeneca, ha dei ritardi dovuti al fatto di una rivalutazione dei dosaggi. Quello della Sanofi credo che abbia ritardi ancora maggiori e complessivamente i due nell'arco del 2021 rappresentano circa il 40% di quello che doveva arrivare in Italia. Così il professor Galli. Spesso ci siamo occupati da questi microfoni, non solo da questi, dell'annoso problema. Tra l'altro abbiamo qualche ascoltatore ogni tanto che ci scrive con dei toni quasi ridenti su questo punto, sul tema di quelli che non si vogliono vaccinare. E quelli che ci scrivono irridenti sono esattamente i Novax, che non so perché hanno una tendenza particolare a mettere nei messaggi che ci mandano, così come negli status su Facebook, mettono sempre questa faccia che rota, questa faccina, questo smiley che ride a crepapelle con le lacrimine agli occhi, quasi a dire voi siete degli ingenui, però il professor Galli, eccolo là che si va a vaccinare, si è vaccinato Biden, si è vaccinato il professor Anthony Fauci, però non siamo gli unici ad avere questo problema, eh. Sentiamo Vittoria Colizza, 8,5 ieri dalla Francia. La Francia è tra i paesi al mondo col più basso, la più bassa, diciamo, adesione alla vaccinazione. C'è stato un forte contraccolpo dall'esperienza della pandemia influenzale del 2009. Quindi il governo ha già deciso comunque che non ci sarà obbligo vaccinale, che punterà quindi sulla vaccinazione facoltativa e punterà chiaramente su una forte azione di comunicazione e pedagogia. Così Colizza. Poi c'è il temore della variante inglese. Walter Ricciardi, dopo aver detto per alcuni giorni che essere arrivato a dire ieri o l'altro ieri in un'intervista al Messaggero che gli inglesi erano colpevoli perché non ce l'hanno detto in tempo che c'era questa variante, eccetera, eccetera, improvvisamente placa un po' le cose a Sky TG24, dice forse avrebbero potuto dirlo prima. Poi si sono resi conto che questa variante era un po' più contagiosa rispetto all'altra e hanno dato l'avvertimento al mondo un po' troppo tardi, perché se avessimo avuto la possibilità di saperlo prima probabilmente saremmo stati più allerta. Quindi è molto probabile che da Londra, dal Kent, dal sud dell'Inghilterra, che è una zona molto densamente abitata, ma soprattutto da cui partono molte persone, questa variante si sia già diffusa in Europa e probabilmente non soltanto in Europa. E quindi un po' più cauto Ricciardi lo troviamo oggi, dopo che molti gli hanno detto, ma da più parti, anche altri esperti gli hanno detto, ma che cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Il professor Galli ancora una volta dice chiudere i voli è un po' tardivo. Tempo per varcare la Manica ce l'ha avuto molto tranquillamente, quindi insomma drammatizzare con la chiusura dei voli per la Gran Bretagna serve sì, serve no. A testimonianza di tutto questo, o meglio, non so se è una testimonianza di quello che dice Galli o invece della necessità di chiudere i confini, apprendo oggi dalle pagine di cronaca di Roma del Messaggero che hanno fatto un po' di calcoli sulle persone sbarcate a Fiumicino e arrivate dalla Gran Bretagna. E che cosa ne è emerso da questi dati? È emerso che su 2000 persone sbarcate a Fiumicino ne sono state testate 100. Quindi vogliamo dirci che la variante inglese non è qua, e la variante inglese è già qua da tempo. Certamente questa chiusura dei confini ti consente un minimo di maggiore controllo, almeno, almeno in questa fase, e però è inevitabile. Cioè già non servì la chiusura dei voli aerei e dei contatti con la Cina, con la quale abbiamo un discreto interscambio di persone che lavorano con la Cina e che fanno avanti e indietro. Figuriamoci con un paese che almeno fino alla fine di questo mese sarà parte dell'Unione Europea e quindi con il quale lo scambio è sostanzialmente costante. Cosa ancora? Vabbè, vi avevo promesso un filo di calcio, perché ovviamente sta facendo discutere questa sentenza con la quale si è deciso che la partita tra Juventus e Napoli andrà giocata. Mi veniva da dire andrà rigiocata, in realtà non si è mai giocata, perché come ricorderete cosa successe: la Juve si presentò in campo, il Napoli fu bloccato dalla ASL, la quale ASL gli disse no, non potete partire per ragioni sanitarie e per rischi sanitari. Ebbene, è stato deciso che la partita si rigiocherà. Sentiamo l'allenatore della Juve, Pirlo, che ieri era già di suo è un po' mesto quando parla. Ieri sera era ancora più mesto per il 3-0 beccato dalla Fiorentina, ancora più mesto perché questa cosa vuol dire che gli toglie potenzialmente altri 3 punti, a meno che questa partita non la vincono. Sentiamo. Noi purtroppo non possiamo far niente, non abbiamo nessun problema a rigiocare la partita. Mi dispiace per le altre squadre che hanno viaggiato, perso punti senza dir niente, sono partite, hanno fatto le loro partite magari anche con giocatori in meno colpiti dal Covid. Quello mi spiace più per loro che per noi, perché dobbiamo rigiocare la partita. Traffico. Piccola precisazione per abbiamo molti ascoltatori che quando annunciamo succede con due personaggi fondamentalmente, con i due Matteo, con Matteo Salvini e con Matteo Renzi. Quando annunciamo che abbiamo Matteo Salvini o Matteo Renzi, tutti iniziano a scrivere, no, non tutti, una parte di voi inizia a scrivere, adesso cambio stazione, hai fatto bene ad avvertirmi, così alle 8:45 quando sarà ospite cambierò stazione. Io vi dico questo sommessamente, non perché mi interessi che stiate qua ad ascoltare l'intervista a Salvini o l'intervista a Renzi o anche l'intervista a Mario Monti, che anche quella ogni volta che diciamo abbiamo ospite Mario Monti succede la stessa cosa, no, non che mi interessi, è una libera scelta. Io penso che in una trasmissione nella quale ci si occupa anche di politica si debba essere aperti a tutto e penso che faccia bene a tutti quanti ascoltare tutte le opinioni. Poi uno si fa la sua idea, cioè ascolta l'intervista e dice no, guarda, per me è un cialtrone, per me è uno bravo, per me è poco interessante, l'intervista è stata poco incalzante, tanto su questi due personaggi in particolare arrivano sempre le critiche dalle due parti, cioè c'è chi dice sei stato troppo duro, altri che dicono non sei stato abbastanza duro, esattamente perché i personaggi sono divisivi. Però vi dico, secondo me vale la pena, le cose vale la pena ascoltare, vale la pena leggerle anche di persone che la pensano, anche quando ci sono persone che la pensano diversamente da noi. Poi, per carità, ovviamente, come è naturale e come è naturale e giusto, liberi tutti. Andrea Manfron, segretario di FaiConfTrasporto, buongiorno, benvenuto, eccoci. Buongiorno. Allora, l'abbiamo chiamata per parlare un po' con lei, soprattutto della situazione che si sta verificando nel Kent con gli autotrasportatori bloccati e più in generale con questa situazione che si sta verificando, con il blocco verso la Gran Bretagna, con la Brexit che sta arrivando. Il vostro settore, il settore dell'autotrasporto, ovviamente è coinvolto direttamente. Allora, come vanno le cose dal lato della stretta cronaca innanzitutto, Manfron? Allora, ieri sera c'è stato lo sblocco da parte lo sblocco coordinato, e questa è già la prima cosa importante, perché il primo provvedimento francese è stato un pochino, come dire, un pugno sugli occhi, è abbastanza inaspettato soprattutto nelle modalità. C'è stato quindi lo sblocco del blocco, mettiamola così, Si è cominciato a piano piano fare un'attività di monitoraggio, perché è consentito di fatto il rientro e rimpatrio di tutti i cittadini europei, quindi non parliamo solo di italiani, tramite con obbligo di tampone, quindi ci sono i test sia gli antigenici che i molecolari, e quindi viene consentito appunto il rimpatrio. Sì. È un percorso lento, perché ci sono migliaia di camionisti, non solo, perché lo parliamo solo evidentemente di autotrasporto, a tutti deve essere fatto appunto il test antigenico. Non so come sono organizzati, perché ancora non si è capito bene, lì in Inghilterra, so che il processo è in corso ed è lento. Ora, sono state 48 ore di complicate, devo dire ci sono state anche delle carenze in termini di assistenza e di mancanza di informazioni, ci sono dei danni alle imprese e ovviamente anche gli autotrasportatori che sono rimasti lì, alcuni all'agghiaccio, alcuni hanno avuto la fortuna di stare in delle aree di servizio con quindi i servizi a disposizione, altri di fatto stoccati nel vero senso del termine in una base militare vicino a Dover. Quindi una situazione poco simpatica. Per fortuna, ripeto, ieri sera con un po' di fatica si è cominciato il rimpatrio. Che tempi immaginatevi? Che idea vi siete fatti come tempi di rientro dei camionisti in Italia? Lenti, perché il primo problema era evidentemente il confine, l'attraversamento della Manica. E questo sembrerebbe risolto. È un percorso lento, perché qui il problema è che possono rientrare solo ed esclusivamente, ripeto, coloro che hanno fatto il test e che ovviamente sono risultati negativi. Poi per chi è risultato positivo ammetto che ancora non è chiaro cosa accada, se dovrà fare un'assistenza con una quarantena particolare, e ci vorranno ore e ore, probabilmente tutta l'intera giornata per vedere lo sblocco totale della situazione. Per fortuna la Commissione Europea si è coordinata in maniera adeguata, e quindi parliamo degli italiani che attraverseranno la Manica, avranno come dire via libera fino al rientro in Italia. Bene. Perché inizialmente anche lì c'erano dei problemi nell'attraversamento dei vari paesi. Sì, e ieri tra l'altro è stata la giornata per parlare non ovviamente del vostro settore, ma delle persone bloccate in aeroporto, nella quale ha fatto molto rumore questo video mandato da una cittadina, Josephine si chiama, una cittadina italiana di origine egiziana, bloccata appunto in aeroporto a Heathrow. Sentiamola, va. Mi chiamo Josephine e da domenica pomeriggio sono bloccata con i miei 3 figli all'aeroporto di Heathrow. Ho fatto scalo per una connessione, avrei dovuto essere in aeroporto soltanto per 2 ore e mi trovo qui bloccata da allora. Viaggio da sola, con le valigie e una carrozzella. 2 dei miei figli hanno gravi problemi di salute e non possono essere sottoposti a questo stress. Abbiamo contattato tutti i numeri, non risponde nessuno. È stata gestita un po' così, questa cosa, Manfron, anche dal vostro punto di vista, cioè un blocco immediato così rapido, tra l'altro ce lo vogliamo dire, come ci hanno detto, come abbiamo sentito dai tecnici poco fa, da Galli, Ricciardi, abbiamo sentito anche Miozzo, per una variante che gira in Italia presumibilmente quantomeno da ottobre, forse da novembre, non lo sappiamo esattamente, però è stata gestita un po' casualmente. Assolutamente sì, come ho detto prima, è stato un provvedimento, come dire, estemporaneo. Qui ormai viviamo, per carità, l'angoscia del momento, ma chi prende provvedimenti di questo tipo lo deve fare con raziocinio. Qualcuno malizioso dice che sia legato al Covid, ovviamente non voglio pensare al Brexit, sì. Non voglio pensare a una cosa del genere, sarebbe evidentemente non realistico, però evidentemente abbiamo avuto tutti un danno, è stata una situazione che per fortuna si è risolta in 48 ore / 72 ore, che serve da lezione insomma. Senta, avete lanciato una sorta di allarme ieri anche, Manfron, sul tema dei vaccini e del trasporto dei vaccini, qua ne stavamo parlando, abbiamo parlato fino adesso di Gran Bretagna dove i vaccinati sono già 500.000, noi si parte il 27 con circa 10.000 persone, c'è tutta una questione logistica da affrontare, quindi di trasporto dei vaccini, su questo fronte come siamo messi? Sì, noi abbiamo solo mesi in realtà, un mese abbondante, cerchiamo di interloquire con il commissario Arcuri, siamo in attesa ancora, non solo noi, tutti, di vedere... Cioè tutte le associazioni, non solamente voi? Ma noi in particolare, ma anche altre associazioni, ma direi tutti i cittadini sono in attesa di vedere il piano di vaccinazione strutturato del commissario Arcuri e non mi risulta che sia stato ancora formalizzato nella sua interezza, nel dettaglio. Mm. E quindi questo è un primo tema, siamo arrivati, evidentemente siamo a fine anno e i primi vaccini devono essere distribuiti a brevissimo e quindi il primo punto interrogativo, quando vediamo il piano? Secondo, mi risulterebbe che hanno un ruolo fondamentale le regioni per competenza evidentemente anche per sì. poter distribuire a livello capillare il vaccino e anche le regioni purtroppo subiscono, credo, la mancanza di informazioni e di dati, di dettagli da parte del ma il sistema dell'autotrasporto è pronto Manfron? Noi siamo pronti, abbiamo dato la massima disponibilità sia in termini di risorse che di competenza. Faccio un esempio, sono da distribuire decine di milioni di dosi nel giro di pochi mesi. Se non ricordo male, nel piano sono previsti 200 milioni di dosi. Vaccinare 40 milioni di italiani nel giro di pochi mesi, quindi una concentrazione enorme e quindi dal punto di vista organizzativo servono mezzi e uomini e competenze. Mezzi perché banalmente tutti i vaccini necessitano di avere la catena del freddo garantita. Perché viaggiano tutti. Ma Manfron, mi dica solo questo perché siamo veramente. Abbia pazienza, siamo veramente in chiusura. Il sistema dell'autotrasporto è pronto a gestirla oppure no? Noi siamo prontissimi, ma ci devono chiamare e dobbiamo entrare nel dettaglio perché non è una cosa. Rischiamo di fare la stessa cosa che hanno fatto in Francia con la chiusura estemporanea del confine. Le cose non si improvvisano, vanno organizzate, pianificate e programmate. Grazie Andrea Manfron, segretario di FaiConf Trasporto, GR24. Ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.